la versione di Oscar Giannino. This is the end. Eccoci qua, buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta in diretta dagli studi Radio 24 di Milano, 16:35 primi 36 secondi in questo martedì 27 di maggio. Auguri a chi, se si chiama Agostino, lo festeggia non nel giorno di Sant'Agostino d'Ippona, ma nel giorno di Sant'Agostino oggi, vescovo, ex vescovo di Canterbury. Telefonate di oggi 800 24 00 24, ancora sul commento a 36 ore dalla fine del voto per le europee. Le cose si stanno sedimentando, per così dire, e siccome di telefonate ne abbiamo date pochissime tra ieri e oggi, anche in tutte le trasmissioni mattutine, però molti sono rimasti fuori. Se volete ancora dirci le vostre impressioni, delusi, entusiasti, diffidenti, chiamateci e diteci come la pensate, mentre noi con i due ospiti di oggi continuiamo a esaminare da diversi punti di vista gli aspetti più significativi del voto, soprattutto di quello italiano, a dire la verità, visto che i giornali di oggi presentavano una serie di cose, lo dico subito sorridendo, perché è un paese un po' singolare il nostro. Di fronte a un 40%, gran parte della stampa che aveva sbagliato in pieno le previsioni, improvvisamente tutti quanti noi giornalisti ci scopriamo poi col senno del poi, diamo l'interpretazione di tutto, abbiamo capito tutto, vi diciamo tutto dove sta andando. Faccio qualche esempio: in molti grandi quotidiani c'è stato questo filone interpretativo, è nata la nuova DC con Renzi al 40%, a me fa sorridere. Devo dire la verità, anche Corriere della Sera che dice la nuova DC dei Fanfani del 58, ma di che cosa stiamo parlando? Scusate se ve lo dico. Per molti versi questa cosa ai miei occhi appare come l'atavico odio di una parte della sinistra italiana e anche di quella giornalistica verso la sana socialdemocrazia europea, che in Italia praticamente non c'è mai stata. E allora, se un capo del PD diverso da quelli storici che guardano a sinistra, la CGIL, fa il 40%, ecco che automaticamente vuol dire che ha fatto la DC, ma neanche per idea. Cioè, i moderati continuano a perdere duramente, ma esistono e sono altri diversi, né il PD e la DC ne lo sarà mai, neanche quello di Renzi. Però, primo filone interpretativo. Secondo filone interpretativo, il Nord, perché nel Nord la vittoria del PD è particolarmente forte, cioè dal Piemonte al Veneto, in tutto l'asse delle regioni del Nord, mai il partito più forte della sinistra ha avuto percentuale tra il 42 e il 43% del Piemonte e del Veneto, il 45% a Milano sola, come la famosa capitale morale d'Italia, e faccio due colpi di tosse su questo. Però, e allora il filone per il quale il Nord, l'economia, l'impresa, grande investimento di fiducia verso Renzi. È vero che nel Nord sono anche le regioni in cui Forza Italia ha la media più bassa rispetto al centro-sud, parecchio più bassa, e anche le stesse regioni in cui il Movimento 5 Stelle ha la media più bassa rispetto al centro e rispetto al sud. Quindi questo secondo filone interpretativo, è così o non è così? Dichiarazioni di industriali che immediatamente dicono cambia l'aria, perché il paese tra la disperazione e l'azione ha scelto l'azione e fa un grande investimento di fiducia nel programma di riforme del governo. Terzo filone, quello della destra innanzitutto Forza Italia e poi del 4,3%, ha un soffio sopra il 4% di Alfano, Fratelli d'Italia fuori, e la Lega che invece canta molta vittoria per questo suo 6 e qualche cosa per cento. E qui reazioni diverse. Il giornale, per così dire, anticipa: Berlusconi ha comunque deciso, resta lui in campo, punto, non si discute. Libero, con un fondo del direttore Belpietro, dice invece: guardate, qui raccontare che l'insuccesso netto, un poco più del 16% di Forza Italia, si deve al fatto che Berlusconi, poverino, gli hanno impedito la campagna elettorale per via che ogni sera doveva rientrare a casa come Cenerentola, parole testuali di Belpietro, questa è una frottola. Bisogna cambiare tutto, bisogna che si faccia avanti qualcuno con il fegato di dire cambiamo tutto. E questo l'editoriale di Libero e del suo direttore Belpietro. Allora, sentiamo un pochino come la pensano i nostri ospiti. Abbiamo con noi questo pomeriggio Francesco Bei di Repubblica. Buon pomeriggio e grazie Francesco. Buon pomeriggio, grazie per avermi invitato. E il vice direttore del giornale Salvatore Tramontano. Buon pomeriggio e grazie anche a te. Buon pomeriggio e grazie. Posso chiedere innanzitutto a Salvatore Tramontano che cosa pensa, è un po' fuori dai denti chiedere a chi lavora in un giornale come la pensa del fondo del direttore di un altro, però come la pensi di quello che ha scritto Belpietro? È così oppure la linea, la vostra, quella di dire resta Berlusconi, non si discute, ti convince di più? Guarda, bastasse dire si presenti uno e cambiamo tutto per risolvere i problemi, sarebbe, mi sembra un po' troppo semplicistico come questione. Sono d'accordo con Belpietro sul fatto che non è che Forza Italia abbia perso perché Berlusconi era limitato per le questioni dei servizi sociali, su questo sono totalmente d'accordo. Secondo me hanno perso perché non ha saputo per la prima volta probabilmente imporre la propria campagna elettorale, non ha saputo imporre la propria agenda, non ha saputo imporre le proprie parole d'ordine, proprio non c'è stata una cosa simbolica in questa campagna elettorale che abbia caratterizzato il Forza Italia. Perché Belpietro dice se si fa un patto con Renzi sulle istituzioni, cioè le cose che contano di più, poi come si fa contemporaneamente a spiegare al proprio elettorato ma noi siamo all'opposizione? Non è che abbia tutti i torti. No, assolutamente, ma dirò di più. Io la mia teoria è che, per esempio, voglio dire, Berlusconi abbia sbagliato perché ha fatto una campagna elettorale per Renzi, attaccando Grillo non ha fatto altro che aiutare Renzi. Dirò di più, penso che l'agibilità politica a Berlusconi sia stata data proprio per arginare il pericolo Grillo. L'operazione è riuscita perfettamente. Oh, ma quando questo capisco, tu dici addirittura cioè, dai un'interpretazione politica anche. Sì, dei limiti, diciamo, del dispositivo per la pena accessoria. Però Belpietro dice una cosa fuori dai denti, dice un ciclo con Berlusconi è finito. Poi può avere è molto scettico sulla successione dinastica, dice certo continuerà ad avere un ruolo eccetera eccetera, ma nella realtà quando dice si faccia avanti qualcuno, dice si deve fare avanti qualcuno, un gruppo, delle persone che partano dal presupposto che quel ciclo è finito o no secondo te? Ma tutti i cicli finiscono, lo sappiamo tutti quanti. Il problema è finisce nel momento in cui subentra c'è una successione. La successione non si decide, non la decide né Berlusconi né a livello dinastico, ma è la forza della persona, del successore che si impone. È quello che è successo nel PD. Però attenzione. Renzi, nonostante tutti i propri gli ostacoli che gli hanno messo, tutto quello c'è riuscito. Che si è imposto. Vero. Nel centrodestra non esiste il Renzi. Vero, però per esempio ti faccio scrisse una volta, ti faccio solo questo esempio, sì. Scrisse una volta una cosa che secondo me è la fotografia di quello che è accaduto. C'è stato uno scambio di culle. Da una parte purtroppo si è preso Renzi, che era ovviamente di destra, è andato a finire a fare il leader del centro-sinistra, e purtroppo il centro-destra è rimasto Alfano. Questa è la verità. Se Renzi fosse nato però, nel centro-destra, però, Salvatore, sarebbe lui il successore. Perdona, hai ragione, i leader non si fanno a tavolino per successione. Però, per esempio, oggi l'UMP, il partito che pure, voglio dire, ha perso non drammaticamente come i socialisti in Francia di fronte al Front National di Marine Le Pen che arriva primo, beh, hanno dimissionato il segretario Copé, tutta la direzione e hanno deciso il congresso a ottobre, è avvenuto questa mattina. Francesco Bei, tu come la pensi sulle stesse domande che ho fatto senza ripeterle a Tramontano? È finito un ciclo? Prima di risponderti, visto che Tramontano è stato sincero e ha, diciamo, criticato la sua parte politica, io devo dire una parola, diciamo, sulla mia e con altrettanta sincerità. Di sicuro, secondo me, è un grande errore dire, come stanno facendo anche autorevoli esponenti della lista Tsipras, e faccio un nome su tutti del mio stesso giornale, Barbara, esatto, che ha vinto la Nuova Democrazia Cristiana e che c'è una sola sinistra in Italia ed è quella di Tsipras, perché oltretutto dire una cosa del genere con un risultato che a stento arriva al 4% significa un po' darsi la zappa sui piedi, no? Significa che in questo paese la sinistra... Che la sinistra, c'è il WWF, insomma, per cosa... Esatto, è da WWF, quindi io penso che sia una grande cavolata, anche perché la Nuova Democrazia Cristiana, voglio dire, di simile è solo la percentuale, perché Renzi ha vinto e ha sfondato, come giustamente ricordavi tu, in zone del paese dove il PD non esisteva più, proprio su una scommessa di riforme, su una promessa di grande riformismo, che certo non era nel DNA della vecchia Democrazia Cristiana quando faceva da antemurale contro il comunismo, per quello prendeva quelle percentuali lì. Per cui sia da un punto di vista storico che politico mi sembra veramente una apprezzabile autocritica, quindi verso la sinistra. Superficialità, ecco, dire una cosa del genere. No, e soprattutto adesso posso dire un'altra cosa, secondo me il 40% arriva anche un po' come risposta agli editoriali di Scalfari, diversi da quelli di Mauro, direttore di Repubblica, quando Scalfari ancora domenica diceva ma io considero Grillo uno di cui non fidarsi perché è autoritario, perché vuole tappare la bocca a tutti i dissenzienti. Però, per carità, votatelo. Secondo me lo hanno votato con un altro criterio. Ma su Berlusconi che pensi invece, Francesco? Chiaramente su Scalfari, diciamo, io non... No, è chiaro, l'ho detto io, ma non posso chiedere il suicidio ai colleghi, ovvio. E su Berlusconi cosa penso? Penso che abbia ragione Tramontano, ovvero che è mancata in questa campagna elettorale quello che Berlusconi ha sempre avuto, cioè il sogno, che fosse un sogno, una fanfaronata, comunque qualcosa c'era sempre, no? Dall'IMU al milione di posti di lavoro, eccetera. Questa volta, diciamo, quello che ricordo io da elettore è una cantilena alla fine insopportabile sui quattro colpi di Stato, a cui ovviamente non ha mai creduto nessuno, e che è stata ripetuta come una litania vittimistica, senza però appunto un'idea forte, una prospettiva che non fosse quella, la battuta sul batteremo i pugni sul tavolo in Europa, che faceva ridere, anche perché quando Berlusconi ci ha provato le reazioni sono state quelle che sono state. Mi date una risposta secca, sì o no, perché poi abbiamo 60 secondi di interruzione sull'informazione stradale. Comincio ancora con Bay. Secondo te quegli 80 euro, come dicono alcuni grillini, gli 80 euro del bonus che oggi chi non li aveva ricevuti statale in anticipo ha ricevuto dal lavoratore dipendente se sta sotto i 25.000 euro nella busta paga, sono stati un metodo per comprarsi l'elettorato, secondo te, Francesco? Questa è un'altra grande cavolata. Ok, aspetta, perché... fermo lì, voglio sapere da Tramontano, gli 80 euro, come la pensi tu? Penso di sì, se l'avesse fatto Berlusconi sarebbe stato uno di scambio. Ah, quindi tu dici è fondata l'accusa dei grillini, va bene, però qui c'è il problema che votando una volta ogni anno non si finisce per poter fare quasi nulla. Io che ho criticato gli 80 euro perché avrei preferito meno IRAP, perché... ma di questo parleremo tra 60 secondi, intanto strade. La versione di Oscar. Ed eccoci tornati in diretta, 16:48, primi 42 secondi. Stiamo parlando ancora degli esiti del voto. Sono con noi Francesco Bay di Repubblica, Salvatore Tramontano che è vice direttore del giornale. Tre rapidissime chiamate agli ascoltatori. Cominciamo con Claudio che ci chiama da Verona. Prego, Claudio. Sì. Mi sa che è caduta la linea. No. No, ci sono. Vai. Ecco, intanto buonasera, signor Giannino. Sì. Io volevo fare una piccola precisazione. Mi piacerebbe vedere la prossima campagna elettorale ripulita da tutto quello che può essere un discorso di magistratura, cioè mi spiego meglio. Mi piacerebbe vedere veramente una campagna elettorale fatta dalla politica e non, come abbiamo visto qua ultimamente negli ultimi anni, negli ultimi tempi, fatta anche dalla magistratura. Allora, siccome questo lo capisco, però naturalmente non si può pensare, come esisteva il vecchio semestre bianco per il capo dello Stato, no? Quello in cui non può scegliere le Camere, non è che si può dire nei giorni di campagna elettorale per alcuni tipi di reati, quelli contro la pubblica amministrazione, tanto per dirne una, sospendiamo i provvedimenti cautelari della magistratura. Oddio! È chiaro che la magistratura direbbe che siamo fuori dal mondo, però da questa idea di Claudio bisognerebbe dedurne una conseguenza istituzionale di questo tipo, e sarebbe una conseguenza nei confronti della quale l'Associazione Nazionale dei Magistrati, secondo me, ci indagherebbe per il solo fatto di pensarla. Però Claudio pone un problema che c'è nella vita italiana. Sentiamo Stefano da Verona. Prego, Stefano. Sì, buonasera. Sì. Volevo fare una considerazione su questa vittoria di Renzi. Sì. Il fatto che abbia vinto con così una percentuale così alta, sì, che venga da una carriera seppur breve politica ma comunque di successo. Beh, non brevissima, insomma, non brevissima. Un politico a vita, il primo momento è quello che ha fatto nella vita, lui è questo. Okay. Certo. Comunque, la mia considerazione era questa: non è che corriamo l'ennesimo rischio che diventi l'uomo che qualsiasi cosa tocchi è oro e quindi diventa un intoccabile, l'uomo solo al comando. Questo dipenderà da quello che farà, perché per il momento il partito se lo è preso così, la sua è una cerchia ristretta, la segreteria l'ha fatta così, il governo l'ha fatto così, ma perché erano gli altri che diffidavano di lui e gli avevano messo i bastoni tra le ruote. Comunque quello di Stefano, il rischio cioè dell'uomo solo al comando a cui tutti si piegano col codardo servile, per così dire, un po' ipocrita, se posso dire, elogio del giorno dopo, e questa è un'altra caratteristica italiana. Dovremo vedere cosa fa in concreto. Beppe da Bergamo, Beppe, dimmi. Sì, ciao, buona giornata a tutti. Sì. Due parole, io vengo da Bergamo, una zona in cui la sinistra non ha mai avuto grandi fortune. E Renzi penso che sia l'unico leader del centro-sinistra in cui da queste parti non è stato etichettato come comunista. Beh, non è mai stato, cioè, lui davvero. Non come Veltroni che dice di non essere mai. No, lui non lo è mai stato davvero. Prodi, ma da noi lo chiamavano comunista. Certo, non è come, certo. Cioè, invece Renzi, sarà per la giovane età, sarà per molte cose, ha trovato riscontro nella gente comune che li vedeva poco. Quindi tu vedi questa faccenda come uno ciò che lo ha aiutato davvero. Tramontano, il successo nel nord, dove Forza Italia arretra di più rispetto al centro-sud ed è il posto dove il PD fa questo risultato storico per davvero, insomma 41, 42, 43% tra Veneto e Piemonte, è una roba che parla chiaro rispetto all'Italia più europea come media di reddito e di produzione. Come lo leggi? Lo leggo perché Renzi non è visto come un uomo di sinistra. Renzi è visto come l'uomo, per certi aspetti, il successore di Berlusconi, di ciò che di buono Berlusconi rappresentava, che poi riesca a trasformare in realtà, in fatti, anche il buono che è in lui, e questo è tutto da vedere, perché fino adesso Renzi ha soltanto promesso tanto. Tutte cose bellissime, ma fatti ancora non ne ha fatti. Fatti, oltre gli 80 euro di bonus è tutto da vedere. 80 euro di bonus, bisogna vedere come verranno pagati. No, su questo abbiamo fatto trasmissioni sulle coperture, su come fare per rendere stabile e strutturale così. Soprattutto li pagheranno altri italiani. Infatti, perché il più delle coperture viene da altre tasse, l'abbiamo detto con grande certezza. Aspetta un secondo, questo successo al nord per te è un cambio di orizzonte politico al nord degli imprenditori, di chi ha più reddito rispetto ai più disperati in Italia, oppure conta l'effetto Tramontano, cioè lo vedono come il successore di Berlusconi? Un po' entrambe le cose. Intanto c'è da dire che non sono voti messi in banca dal PD, c'è ormai una quota intorno al 10-15% di elettori che giustamente in maniera europea vota a seconda della proposta più convincente, che può essere una volta di centrodestra, una volta di centrosinistra. Io penso che la chiave del successo di Renzi sia stata questa: a differenza di tutti gli altri leader del centrosinistra del passato, ha riconosciuto che alcune delle istanze, diciamo, degli elettori, non di Berlusconi, degli elettori che nel passato hanno scelto Berlusconi, non erano campate per aria, cioè non era un popolo di milioni di persone che aveva mandato il cervello all'ammasso e aveva votato Berlusconi per fare un favore a Mediaset, certo, per il conflitto interno, ma perché rappresentava un'istanza sincera di cambiamento. Si è rivolto con sincerità a queste persone dicendo loro: guardate che noi non pensiamo di essere moralmente superiori, vi vogliamo convincere, alcune delle cose che dite, che chiedete sono giuste e noi le faremo perché siamo più credibili. Secondo me è stata questa al fondo la chiave del successo. In parte ha ragione Beppe, mi sembra, da Bergamo, no? Sì. Cioè, quando conta anche il fatto che lui, insomma, non è proprio ipotizzabile che gli si possa dare del comunista. Certo, no, è che quel 10%, a cominciare da tutto l'ex elettorato di Monti, se poi ti pieghi alla CGL, eccetera, eccetera, secondo me te lo riperdi. Però questa è la mia opinione, fuori dai dubbio. Tramontano, invece, l'effetto Grillo, qual è stato l'errore principale secondo te del Grillo? Dei giornalisti a credere che fosse davvero in procinto di acchiappare Renzi, oppure ha spaventato troppo gli elettori ed ha perso per questo nelle ultime due settimane? Secondo te, Salvatore? Ma io sinceramente non sono convinto che lui abbia spaventato gli elettori. Io penso che non ci sia mai stato questo aggancio. Penso che Renzi sia veramente entrato nell'immaginario degli italiani, sia quello che gli italiani desideravano, e noi, cioè, tutti quanti, sondaggisti e giornali, probabilmente non l'hanno capito fino in fondo, pensavano che fosse al massimo un Veltroni, invece Renzi è qualcosa di molto più trasversale, di molto più profondo. Quindi chiederti una cosa? No, arriva, non arriva solo alla testa, arriva anche alla pancia. Sì, sì. Ma se è così, Salvatore, per un eventuale leader moderato, mi stai dicendo tu per primo che se Renzi non dovesse rimanere dal punto di vista dei moderati, di un osservatore moderato, di un elettore moderato, di per anni e anni e anni, bisogna che ci sia un leader, una squadra di persone che abbiano un effetto ancora maggiore, ancora più liberale, ancora più coerente. È così o no? Io penso che prima ancora che l'avversario di Renzi, il problema è, sarà Renzi, l'avversario di Renzi è Renzi, perché Renzi ha ottenuto un consenso mostruoso, ora può solo peggiorare, perché diventa difficile, ora deve governare, ora deve fare le cose. A me l'uomo solo al comando non fa paura se fa, finalmente riesce a cambiare questo paese che è vecchio in tutto, in un sistema marcio, chiarissimo, è completamente andato. Quindi se lui ci riuscisse, Dio volesse. E Dio volesse, il problema siamo italiani, è prima ancora che Bravo. Se lui riuscisse in questo, magari. Senti, aspetta un secondo, l'ultima battuta, Francesco Bei. L'uomo solo al comando, di fronte a questo rischio, per un uomo che non decentra nulla fino a questo momento come Renzi, non è un rischio vero secondo te, Francesco? No, ma purtroppo non è così, diciamo, perché abbiamo visto finora che il film era molto diverso. Scuso per la tosse. In Parlamento, anzi, noi abbiamo visto un PD, un Renzi ostaggio anzitutto. E quindi ti devo fare concludere, tu dici il rischio non esiste, se no, anzi, forse qualche condizionamento in meno. Perfettamente, grazie a Salvatore Tramontano, Francesco Bei, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.